Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti, buon mercoledì. A proposito di questo giorno della settimana, vorrei iniziare proprio la puntata con una citazione. Oggi è mercoledì, giorno in cui tutto può succedere. Vi ricordate il film da cui abbiamo tratto questa frase? 800240024, iniziate a scrivere, ma continuate soprattutto a seguirci. Come sempre, oggi non mancheranno i temi di denari, sempre con un occhio alle vacanze, per alcuni alle porte. Parleremo di quanto ci costa viaggiare in autostrada ma anche in treno, dei possibili rincari in arrivo e poi di quanto può costarci un uso imprudente del telefonino all'estero. Le nuove regole del roaming ci rassicurano, ma è bene tenere gli occhi aperti. Ne parleremo con i nostri esperti. Intanto, se avete bisogno di indicazioni, rassicurazioni, consigli, mettetevi subito in contatto con noi. Per la parte di cuore commenteremo con i nostri esperti le ultime notizie che arrivano dalla ricerca. Riguardano l'Alzheimer, una malattia neurodegenerativa che rappresenta la causa più comune di demenza nella popolazione con più di 65 anni. Poi cambieremo decisamente pagina perché parleremo di ginocchia, gomiti, caviglie, quando e quanto sono loro a reggere il peso della nostra estate, non solo dei chili che ci portiamo dietro con noi. Sì, viaggiare. Eh sì, viaggiare magari in giro per il mondo, ma anche, perché no, soltanto in giro per l'Italia, un paese meraviglioso. Le vacanze danno comunque ai più fortunati anche l'occasione di spostarsi, di raggiungere bellissime località oppure persone care, a proposito di cuore. Eppure non possiamo dimenticare che ogni spostamento ha un costo. Dipende naturalmente dal mezzo di trasporto scelto, dalla lunghezza del viaggio, ma anche da chi stabilisce le tariffe delle autostrade, ad esempio, che tendono ad aumentare più che a diminuire solitamente. Allora, prima di partire, meglio fare bene i conti, tenersi informati. Oggi parliamo di tariffe autostradali e non solo, con Furio Truzzi, presidente di Asso Utenti. Bentornato. Eccoci, buongiorno. Intanto grazie, sono contenta di avere questa parte, di dedicare questa prima parte di Cuore Denari a questo tema e soprattutto di averla come ospite. Intanto a chi ci sta ascoltando chiedo di raccontarci al nostro numero verde quali tragitti percorreranno in questa estate, magari lungo lo stivale, se li percorrerete in autostrada, quindi con la vostra auto, o magari in treno. Avete già calcolato, fatto due conti di quanto vi costerà lo spostamento? Potete usare anche WhatsApp 349-238-6666. Presidente, partiamo dalle autostrade perché ieri qualcuno potrebbe aver sentito delle notizie un po' preoccupanti in materia. Tutto parte da una sentenza del TAR del Lazio che avrebbe revocato un blocco deciso alcuni anni fa sulle tariffe su alcune autostrade del nostro paese. Mi aiuta a ricostruire la vicenda? Volentieri. Grazie. Mi sembra... possiamo partire da una metafora fantozziana dedicata al compianto Paolo Villaggio, dove chi si appresta ad andare in vacanza alla nuvoletta nera dell'impiegato sfigato, che si tocca anche pagare un aumento improvviso delle autostrade. Ecco, io spero di scongiurare questa metafora, prima di tutto perché ci sono anche dei tempi tecnici per dare avvio a una sentenza. E il Ministero, a nostro avviso, deve intraprendere tutte le iniziative del caso per opporsi ad altri gradi di giudizio da un lato, ma riformare completamente il tema tariffario. Ecco, questa è l'occasione buona per mettere il coltello nella piaga di un sistema tariffario autostradale che è fortemente svantaggioso per l'utenza e molto remunerativo per le società gestrici. Ecco, perché si parla di aumenti molto pesanti, anche del fino al 10%, e quindi passiamo da 20 a 22 euro, insomma, sulla Roma Teramo e altre linee che non fa piacere, ecco, soprattutto per chi non va solo in vacanza ma utilizza l'autostrada anche giornalmente. Ecco, non vorremmo ritornare ai famosi abbonamenti di qualche anno fa proposti dal precedente ministro Lupi. Cioè, qui si tratta di intraprendere una revisione tariffaria molto intensa, perché è sotto gli occhi di tutti che le autostrade sono fortemente remunerative, ecco, quindi certo. non si capisce perché questi ricavi non possano beneficiare neanche l'utenza, che a volte è costretta a code interminabili per problemi affrontati a volte anche male. Ma Presidente, quali sono le tratte autostradali interessate? Possiamo fare una mappatura? Beh, diciamo che la sentenza riguarda il gruppo Toto, che sì, quindi sono quelle che citavamo prima, la Roma-Teramo e la Roma-Pescara ad esempio, però il tema è traslato anche sulle altre, ad esempio abbiamo quelle concessionarie della famiglia Gavio che gestisce le autostrade Ligure del Nord-Ovest, autostrade per l'Italia del gruppo Veneto, insomma direi che c'è un'ampia maggioranza quasi referendaria a colpire questi viaggi che possono costare più salati per questa sentenza del TAR. Ma Presidente, è vero che le società potrebbero chiederci non solo un aumento ma anche gli interessi per gli aumenti che non sono stati applicati negli anni passati? Davvero applicherebbero tutti insieme in un colpo solo? Perché questo, a questo punto c'è da andare a piedi, Presidente. Noi sosteniamo sempre il cammino, dico fate il fagotto e incamminatevi. Sì, oppure veramente ci scopriamo la bella Italia fuori dai circuiti autostradali. Battute a parte, direi che questa è un'ipotesi, secondo me remota, perché entrare a calcolare gli interessi, anche se la sentenza lo prevede, di queste storie è sicuramente non una cosa automatica né semplice né magari attuabile da subito. Sì. Certamente un principio, io concordo su un principio, ecco, direi che basta con i blocchi se non riformati i sistemi tarifari, ecco, quindi posso anche comprendere il gruppo Toto che si è trovato di fronte il solito Stato che a forza di decreti e di provvedimenti blocca le tariffe, però diciamo che a volte chi abbaia rischia poi di prendersi una bastonata al di là di mordere, perché torno a ripetere, se andiamo a guardare l'impianto tariffario così come costruito nel sistema autostradale, non è costruito assolutamente bene e per quanto venga prevista la remunerazione degli investimenti e per quanto venga considerata la remunerazione della concessione, questi due parametri sono in forte disequilibrio. Ecco. Presidente, io cambierei, se lei è d'accordo, mezzo di trasporto, dall'auto passerei al treno, perché tanti viaggeranno in treno quest'estate, ma sappiamo che questo mezzo è scelto da molti per viaggi quotidiani impegnativi, quelli dei pendolari, e prima che i tanti pendolari italiani vadano a godersi le meritate vacanze, abbiamo pensato che valesse un po' la pena fare un ultimo aggiornamento sulla vicenda che ha riguardato le tariffe dei treni nel corso degli ultimi mesi. Indiziato speciale è stato il famoso algoritmo. Ricostruiamo anche in questo caso brevemente la vicenda. E volentieri, le regioni questa avevano... le piace, eh? Ho sentito piace, da quel volentieri che non aspettava l'ora. No, nel senso che non aspettavo l'ora, perché poi i pendolari e i treni sono un po' le come dire al cuore. i fans della curva di assutenti, e quindi dedico volentieri questa informazione a tutti gli ascoltatori, ma in particolare i pendolari italiani, ecco. Chi attraversa una regione fino ancora oggi, per la verità, pagava una tariffa assurda, superiore al costo della più alta tariffa regionale per il chilometro corrispondente, perché un algoritmo assassino, lo definisco io, creato nel lontano 2007 e poi non più aggiornato, ha provocato una distorsione tariffaria incredibile, per cui un Genova-Milano, mettiamo, costa l'abbonamento mensile 130 euro, il pari abbonamento in Lombardia ne costa 100, sempre per gli stessi chilometri, quindi sono 30 euro in più che chi scavalla le regioni, piuttosto che la Roma-Napoli, piuttosto che la Bologna-Firenze e via discorrendo, paga cifre anche consistenti fino a 300 euro in più all'anno, 300-400 euro in più all'anno. Ora che cos'è successo? È successo che le regioni hanno accolto la nostra protesta, la nostra segnale di ingiustizia di questo sistema tariffario e hanno deciso, stanno decidendo formalmente in queste ore, in questi giorni, l'applicazione retroattiva dal 1 luglio di tariffe proporzionali e quindi finalmente anche i pendolari, e sono oltre 17.000 che attraversano le regioni italiane con altrettanti problemi che si ripercuotono su tutto il territorio, potranno pagare un abbonamento equo, un abbonamento proporzionale ai chilometri percorsi. Il metodo sarà operativo da dicembre perché praticamente si sconvolgono 70.000 relazioni, perché non c'è solo, come dicevo prima, la Firenze-Roma o la Bari-Pescara, no? Sono 70.000 le relazioni ferroviarie e quindi questa revisione ci è stato chiesto, sarà poi operativa ma con valore retroattivo dal gennaio 2018, quindi conservare gli abbonamenti. Regola numero uno. A breve usciranno i comunicati, noi ci saremo, non solo assutenti ma tutte le associazioni di consumatori che con noi hanno condiviso la battaglia, sono tante, quasi tutte, sono pronte e disponibili a sostenere anche chi l'avesse perso l'abbonamento, anche perché un'autodichiarazione e via dicendo la sosteniamo con forza. Ecco, però tenete gli abbonamenti perché vi verranno dati questi rimborsi dal 1 luglio 2017. E vi verranno dati nel gennaio 2018, ma non è finita, stiamo lavorando con Trenitalia perché anche chi è stato più coscienzioso ha tenuto gli abbonamenti arretrati, abbiamo calcolato che il danno si riverbera dal 1 gennaio 2012, potrà accedere a una procedura per ottenere il rimborso anche per i 5 anni pregressi, quindi dal 1 gennaio 2012. Grande. Questo è un lavoro sul quale stiamo impegnati. Concludendo l'iter e siamo impegnati e speriamo di confermare la notizia quanto prima. Sempre per sostenere la curva, mi è piaciuta. Giovanni dalla provincia di Milano, per un intervento breve e per lanciare il traffico, faccia tutto lei. Ciao cara, innanzitutto complimenti a te e alla tua collega che in questo momento non c'è per le bellissime cose che ci lasciate ogni giorno. Grazie. Allora, esperto in canto ambrosiano di Milano. Allora, capace di costruire dei percorsi fatti a piedi, cioè esiste anche il cammino di Sant'Ambrogio che forse di voi non lo sanno, oltre a quello di Compostela, quello di altre varie. Sì. Allora, la riscoperta, come diceva Dickens, nei Voyage or Plaisir, di questi viaggi in carrozza, tra le vie, le nostre statali, quelle che adesso sono la Romea, la Via Emilia, la Porrettana, a scoprire queste bellissime Apuane da una parte all'altra dell'Italia. Far conoscere ai nostri bambini, anche geograficamente parlando, sul il territorio direttamente, vedendo questi bellissimi paesaggi direttamente dalla macchina. Certo. È un aiuto per la geografia, per la conoscenza del territorio. Quindi Giovanni, queste città bellissime, Medicina, questa città bellissima. Giovanni, questo è un consiglio alla Cuore Denari, quindi si risparmia, perché se le tariffe delle autostrade diventano care, con, come diceva il presidente Truzzi, con delle strade alternative, impariamo a conoscere meglio l'Italia, ci scrive Giovanni e ci racconta Giovanni e facciamola conoscere ai nostri bambini. Giovanni, andiamo a sentire il traffico. Grazie presidente Truzzi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buone vacanze a tutti. Buone vacanze. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Cuore e Denari. Voglio raccontarvi una buona notizia che arriva dalla ricerca, che è impegnata da anni a trovare una cura per la malattia di Alzheimer. Sono stati appena pubblicati i risultati del più grande studio genetico ad oggi realizzato su questa malattia. Uno studio a cui hanno lavorato più di 250 gruppi di ricerca, sia europei che americani, riuniti e coordinati in un unico, immaginiamolo come un grande consorzio multinazionale, dall'Università di Cardiff, dal Penn Neurodegeneration Genomic Center di Philadelphia, ma anche in collaborazione con l'unità malattie neurodegenerative del Policlinico di Milano. E noi amici abbiamo proprio il piacere di farci raccontare e spiegare l'importanza di questa scoperta direttamente dalla dottoressa Daniela Galimberti, che è ricercatrice del Policlinico di Milano. Buongiorno dottoressa Galimberti, complimenti. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Dottoressa, lei e i suoi colleghi avete studiato il DNA di oltre 85.000 persone e avete scoperto 29 nuove varianti genetiche associate allo sviluppo della malattia di Alzheimer, che rappresenta, l'ho anticipato e come ben sappiamo, la causa più comune di demenza nella popolazione con più di 65 anni. Ci aiuta a capire la portata di questo risultato? Sì, ma in questo studio abbiamo sostanzialmente decifrato una parte del DNA umano che potrebbe avere un ruolo importante nella predisposizione allo sviluppo della malattia. Adesso la sfida che abbiamo davanti sarà quella di capire quali sono invece i meccanismi che a partire da queste varianti nel nostro genoma portano, nella fattispecie nella malattia di Alzheimer, allo sviluppo della demenza. Ma dottoressa Galimberti, quanto pesa la componente genetica nello sviluppo dell'Alzheimer? Ma devo dire che le forme puramente genetiche sono molto rare, circa il 2%, e in questi casi abbiamo un gene che causa la malattia e noi vediamo in tutte le generazioni la comparsa dei sintomi. Sì. Però invece la maggioranza dei casi sono cosiddetti multifattoriali, cioè abbiamo una componente genetica che si combina con una componente ambientale e determina così la comparsa di malattia. La componente genetica, appunto, l'abbiamo scoperta in questo studio, e invece la componente ambientale è quella parte di, come dire, stili di vita, quali per esempio l'alimentazione corretta oppure l'attività fisica. Certo, ne abbiamo parlato, ma forse ci torneremo. Dottoressa Galimberti, però prima mi aiuti ancora una volta a fare una distinzione tra componente genetica e familiarità, non sono sinonimi, è bene chiarirlo, e vorrei tornare su questo perché penso a chi ha casi in famiglia e si chiede quanto questo possa essere un fattore predisponente. Ecco, come dicevo, familiarità non vuol dire necessariamente avere dei fattori predisponenti, quindi ci sono, come dire, nel nostro genoma una combinazione di tanti fattori che può portare alla malattia, ma non ne basta uno o due, cioè è una situazione cosiddetta complessa. Quindi la familiarità vera, cioè la trasmissione da generazione a generazione, sta in pochissimi, fortunatamente, casi. Dottoressa, proprio nei giorni scorsi noi abbiamo letto e commentato uno studio che evidenziava in modo chiaro che un caso di demenza su tre potrebbe essere evitato con un'attenta e anche precoce prevenzione che si basa su uno stile di vita attivo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto mentale. Abbiamo ricordato i 9 fattori a cui la ricerca riconosce un ruolo preventivo e protettivo nello sviluppo dell'Alzheimer. Li abbiamo naturalmente postati sulle nostre pagine, quindi rimando gli ascoltatori a leggerli, lo ricordo perché è bene sapere che la prevenzione aiuta e fa sempre la differenza, e questo dobbiamo crederci, dottoressa. Ognuno può fare, ciascuno di noi può fare la sua parte. Certo, allora io condivido pienamente quanto appena detto, e anzi nel campo della malattia di Alzheimer noi consigliamo sempre ai familiari, quindi anche di persone giovani, di attuare almeno una prevenzione cosiddetta primaria. Ci sono stati tanti studi in questo senso che hanno dimostrato, per esempio, che una dieta mediterranea protegge dallo sviluppo della malattia. E perché protegge? Perché ci sono dei cibi, quali ad esempio l'olio d'oliva, piuttosto che le vitamine contenute in frutta e verdura, che ci proteggono perché aumentano, diminuiscono il livello di infiammazione e certo, di ossidazione. Invece altri, come la carne rossa e i formaggi, aumentano questo stato infiammatorio e quindi anche le cellule del cervello risentono di questo ambiente non favorevole e sono più portate a morte, diciamo, a non funzionare bene. Poi consigliamo anche l'attività fisica. È stato dimostrato che un'attività fisica moderata porta più sangue al cervello e quindi favorisce il nutrimento dei neuroni e ancora una volta li fa funzionare meglio. E questa è la base, va bene per tutti. Questa è la base, va bene per tutti. Poi invece abbiamo delle prevenzioni un pochino più mirate, cioè secondaria nei soggetti molto a rischio, quindi che hanno tanti fattori, sia genetici che ambientali, che predispongono alla malattia, e poi ovviamente la cura una volta che ci sono i sintomi, anche se devo dire che la cura una volta che ci sono i sintomi è tardiva, perché le cellule sono destinate comunque a morire, quindi noi possiamo aiutare il cervello, così prolungare un pochino la vita delle cellule, ma sicuramente non siamo in grado di fermarla. Dottoressa Galimberti, un saltino ancora indietro, torniamo alla ricerca e ai risultati di questo grande studio internazionale che stiamo raccontando e che vi ha permesso di conoscere meglio la malattia, decifrando, come lei ci ha spiegato, parti di questa sorta di linguaggio, e questo è un passaggio fondamentale, indispensabile per arrivare allo sviluppo di trattamenti farmacologici specifici. Quindi siamo, come si dice, in cammino, la ricerca non si ferma, va avanti, ma raccoglie cammin facendo anche dei frutti. Come e cosa è cambiato oggi, dottoressa Galimberti, rispetto a 10 anni fa nella diagnosi e nella cura della malattia di Alzheimer? Ma devo dire che la ricerca dell'inizio anni 2000 era soprattutto focalizzata sul modello animale, quindi c'erano tanti dati, tante scoperte fatte sul topo, sul ratto. Quando si è passati dall'animale all'uomo, quindi si sono tentati dei trattamenti che nell'animale andavano benissimo, in realtà si sono avute un po' di delusioni, proprio sì, perché abbiamo capito che forse l'animale non è il modello più adatto. E quindi è partita la ricerca invece sull'uomo, che ha portato ovviamente a questo risultato di oggi, ma anche a tanti altri, e che ci ha fatto identificare dei potenziali bersagli terapeutici, per cui adesso abbiamo dei nuovi trattamenti che sono ovviamente ancora in fase sperimentale, ma sì, che sicuramente avranno poi, io credo, dei risultati insomma quantomeno migliori di quelli avuti in passato. Invece per la diagnosi, devo dire, abbiamo oggi gli strumenti per effettuare una diagnosi precoce, per cui è bene, quando c'è anche un sintomo molto lieve, sottoporsi a una serie di analisi che ci permettono di dire se è malattia di Alzheimer oppure no, e in questo caso trattare adeguatamente l'una malattia o l'altro. Questi sono quindi dei passi avanti e sono buone notizie. Sì, e adesso... sì. Dottoressa Galimberti? Diciamo l'ultima cosa che vorrei, in linea con quanto detto prima, la malattia è multifattoriale, quindi anche evidentemente il trattamento in futuro dovrà essere multifattoriale, quindi dovremo per ogni paziente costruire una terapia su misura in base ai suoi sintomi, alla sua situazione di rischio genetico e alla situazione di rischio invece dei fattori ambientali. Quindi una terapia multipla e mirata al controllo dei diversi meccanismi che si sono alterati. Sì. Quindi ci ha dato delle buone notizie, continuiamo questa strada cercando di raccogliere sempre più successi. Voglio raccontarvi un'altra bella iniziativa, l'Alzheimer Fest. Si terrà a Gavirate, sul lago di Varese, dal 1 al 3 settembre di quest'anno. Perché settembre? Perché settembre è il mese dell'Alzheimer. Voglio raccontarvi questa iniziativa che per me è straordinaria e che segna un po' un cambiamento di passo. Ho invitato Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera, che ha conosciuto l'Alzheimer in famiglia con la sua mamma, che ci racconterà come ha strutturato questa idea e che cosa succederà. Ciao Michele. Buongiorno. Bella idea, bellissima idea. Allora, io dacci una brevissima anticipazione, perché poi dopo il GR parleremo dell'Alzheimer Fest. Sì, è una festa. Come dice come il nome? Detto, sì, è una festa popolare che è aperta a tutti, tutti convocati, come dite voi, con il vostro programma. In prima fila però ci sono le persone con demenza e i loro familiari, quindi... Sani e meno sani. Un programma ricco di cui Michele Farina ci parlerà subito dopo il nostro GR. Io vi aspetto. Intanto 800 24 00 24, se volete mettervi in contatto con noi per raccontarci le vostre storie o per porre le vostre domande ai nostri esperti. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin nel banco freezer. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, ve l'ho anticipato, voglio parlarvi di una bella iniziativa, anzi per farvela raccontare per bene ho invitato un collega, un amico, Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera, che come vi ho anticipato ha conosciuto l'Alzheimer in famiglia con la sua mamma. Michele, allora, siamo qua, pronti a farci raccontare tutto. Chi è invitato? Che cosa si fa? Allora, guarda, la prima cosa secondo me importante da dire è questo, cioè perché è una festa. Sì. Non certo per celebrare una malattia, per sì, dimenticare le sofferenze che provoca, la perdita della dignità che spesso accompagna chi ne è colpito. È una festa però per celebrare le persone con demenza e affermare una volta di più che a ogni stadio della malattia sono persone che non smettono di desiderare, emozionarsi, godere di piccole o grandi cose, insomma di vivere. In questo senso credo che non è uno svago, l'Alzheimer Fest, pur essendo pacifica e serena, è anche una festa esplosiva in qualche modo, perché se le persone con demenza possono godersi un quartetto d'archi, mangiarsi una buona pasta, disegnare un mandala, esprimere un desiderio, allora vuol dire che non possono essere trattate dalla società, dalle istituzioni, come se fossero degli zombie, delle non persone, degli invisibili. Quindi questo è per me importante. Poi quello che si fa, guarda, è tantissimo. Sul sito www.alzheimerfest.it c'è il programma, ci sono le spiegazioni, i dettagli, ci sono 40 eventi, 40 cose che succederanno a Gavirate, quindi si va dalla musica. Ecco, ho letto che ci saranno anche i cori delle persone con Alzheimer, che fanno teatro con i familiari, che raccontano assolutamente, storie. Assolutamente, sì, la festa si apre proprio con un coro, il coro delle voci d'argento, che arriva dalla provincia di Mantova, che è fatto da persone con l'Alzheimer e da persone che non ce l'hanno. La mostra, la prima mostra fotografica, che è chiamato Selfie senza self, Selfie senza self è carina, sì, quasi senza self, insomma, è fatta da sono fotografie fatte da persone con la demenza. Ci sono tutta una serie di attività naturalmente libere, cioè, uno può stare anche tranquillamente a guardarsi il lago, perché Gavirate è un posto bellissimo che io ho scoperto, non conoscevo, ma è meraviglioso. Mi hanno fatto conoscere gli amici dell'associazione, si chiama Rughe, e quindi il posto è bello, uno può anche star lì in santa pace a guardarsi il lago, guardarsi i canottieri che vanno e vengono con le loro barche. Sì, è una festa nel senso pieno del termine. Sì, senza dimenticare i medici, insomma. È bravo, perché ci sarà anche uno spazio di divulgazione, Michele, esatto, che è curato dall'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Esatto, perché il suo presidente Marco Trabucchi ha sostenuto questa idea della festa, è diventato assolutamente un partner insieme a tantissime altre gente. Allora abbiamo pensato di dare questo spazio per tutta la durata della festa, e io li chiamo i medici senza camici, l'abbiamo chiamato anche scherzosamente The Doctor is In, come il baracchino di Lucy dei Tina, sai, dove c'è Lucy che dà le sue dispense, i suoi consigli, ecco, in maniera molto più amichevole, come fa Lucy. Gli esperti di IP saranno a disposizione e faranno il punto su cure e ricerche, e soprattutto racconteranno in maniera assolutamente scientifica ma comprensibile a tutti che cos'è l'Alzheimer, come si convive con l'Alzheimer. Quindi ci saranno, dai farmaci alla dieta, all'attività motoria, ai costi, perché l'aspetto economico non è non siamo a cuore denari, certo. Bravissimi. Non possiamo dimenticarlo. Ecco. Quindi ci saranno questi medici senza camici. Come quelli che intervengono a cuore denari. Noi li facciamo togliere il camice per avvicinarli ai nostri ascoltatori. E in giacca e cravatta invece l'ospite con cui parleremo di ginocchia, gomiti e caviglie, il professor D'Anchise, che magari parteciperà anche lui. Verrà con me a fare un giretto a vedere che cosa succederà a Gavirate sul lago di Varese. Lo ricordo, dal 1 al 3 settembre. Perché settembre, come ho anticipato prima e ci ha ricordato anche Michele, è il mese dell'Alzheimer. Michele, torneremo a parlarne, intanto complimenti, è una bellissima iniziativa, grande. Grazie a voi, venite, a presto. Certo, non mancheremo. Casa. Hai ragione, è la casa di E.T. quella. E.T. casa telefono. Una volta, è vero, quando andavamo in vacanza all'estero ci sentivamo un po' come E.T. che telefona a casa, in un pianeta lontano. Eravamo perfettamente consapevoli che anche pochi minuti di conversazione ci sarebbero costati una fortuna, e quindi molto attenti ad impostare appositi piani tariffari e guai ad accedere ad internet. Oggi, con le nuove regole del roaming, quantomeno nell'Unione Europea, le cose sono ben diverse, o almeno dovrebbero essere così. Dal 15 giugno scorso, infatti, i cittadini europei possono usare i piani tariffari degli operatori di telefonia mobile anche all'estero, nei paesi dell'Unione, alle stesse condizioni della nazione di provenienza. Questa è una buona notizia che Deborah aveva già trattato e su cui avevamo coinvolto i nostri esperti, ma Allora, perché torni a parlarne, Nico? Vi chiederete. Come sempre, per mettervi un po' in guardia in vista delle vacanze. Il perché è bene prestare sempre un po' di attenzione. Ce lo facciamo spiegare da Gianfranco Giardina, che è direttore del portale di tecnologia D-Day.it ed esperto di audio, video e elettronica di consumo. Ciao Gianfranco. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Intanto faccio la convocazione ai nostri ascoltatori, ma convoco anche su questo tema il professor D'Anchise, perché lei è un grande esperto di ginocchio, di gomiti, di caviglie, ma telefonerà pure quando va in vacanza. Eh sì. Quindi anche lei ha un lei può intervenire direttamente senza fare il nostro numero verde. Ok. Invece voi potete comporlo all'800240024 se avete già viaggiato nell'Unione Europea dopo il 15 di giugno, chiamateci, se avete utilizzato la vostra normale tariffa telefonica senza costi aggiuntivi, insomma diteci come andate, se vi siete trovati in qualche brutta sorpresa segnalatevelo. Intanto possiamo consigliare di controllare sempre con molta attenzione il proprio piano tariffario, non si sa mai, no? Prima di partire. Quello assolutamente sì, la prima cosa che io controllerei è un ripassino di geografia e di geografia politica, cioè dove inizia e dove finisce questa comunità europea. Bravo. Perché bisogna stare un po' attenti. Questa facilitazione vale soltanto, lo dicevamo, all'interno dei paesi della comunità europea. La Svizzera, tanto per fare un esempio, non ne fa parte, quindi per esempio di ritorno dalla Francia o dalla Germania, transitando dalla Svizzera, se noi lasciamo il roaming attivato, siamo in grado, anche senza fare nulla sul telefonino di attivo, ma di scaricare facilmente un credito residuo, semplicemente perché lo smartphone continua a fare piccolo traffico dati, e il traffico dati all'estero senza questa facilitazione, lo sappiamo, è tariffato molto caro. E quindi insieme alla Svizzera dobbiamo annoverare per esempio degli altri paesi che potrebbero dar fastidio, alcuni quasi insospettabili, cioè ricordatevi per esempio Monte Carlo è fuori, San Marino è fuori da questo accordo di roaming, e anche una serie di paesi confinanti con l'Europa e anche molto vicini, per esempio abbiamo gli onori, anzi purtroppo non gli onori della cronaca, ma purtroppo la cronaca anche triste, abbiamo avuto in questi giorni l'isola di Kos, che fa parte della Grecia, ma l'epicentro del terremoto è stato a Bodrum, che è proprio di fronte a Kos, ma in Turchia. Ecco, certo. È facile, per esempio, essendo in quella parte della Grecia, essere collegati temporaneamente a delle reti cellulari turche, e allora cambia completamente la tariffa. Ma allora come faccio? Allora il ripasso di geografia lo farò. Okay, quello. Okay. E intanto, a proposito di Svizzera, ci scrive un ascoltatore: mi trovavo zona Canzo, territorio italiano, il cellulare agganciato a una cella svizzera, mi sono trovato il credito in negativo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi la prima cosa è non pensare che allora è cambiato tutto, quindi si può tenere il roaming dati sempre attivato. La prima cosa è questo piccolo interruttore virtuale che abbiamo nelle impostazioni del telefono: roaming dati sì, roaming dati no. Tenerlo normalmente su no e attivarlo su sì soltanto quando si è in condizioni di sicurezza territoriale, diciamo così, per esempio non sul confine, proprio per i motivi di cui dell'esperienza del nostro ascoltatore. Certo. Pratica. Quindi questa è la prima cautela, se noi facciamo questo siamo già a metà dell'opera, nel senso che non dovremmo avere grosse sorprese. Attenzione però, le pari condizioni non sono sempre pari, cioè non è che proprio andiamo all'estero e potremmo fare tutto quello che vogliamo allo stesso modo come se fossimo in Italia, perché il traffico dati che abbiamo potrebbe essere limitato, leggermente limitato. In realtà al momento non appaiono limiti applicati, però c'è tutta una formula un po' complicata, ma che potrebbe ridurre i nostri giga di traffico dati che abbiamo da quelli che abbiamo a contratto a un pochino meno. Normalmente arriva un SMS che ti informa se c'è questo limite. Ci sono dei casi specifici, soprattutto con gli operatori virtuali che sono Fastweb, Copvoce, eccetera, eccetera, cioè quelli che non hanno una rete propria ma si appoggiano a reti di gestori terzi. Ecco, questi hanno chiesto una deroga, ce l'hanno per legge, di un anno per adempiere a questa norma, quindi con quei gestori noi potremmo non avere precisamente tutte le stesse cautele. Per esempio Fastweb, che è uno dei più utilizzati, offre lo stesso traffico voce anche all'estero, ma solo un gigabyte al mese di traffico dati. E può farlo per legge, quantomeno per ora, ancora per un anno, e questo in considerazione di una cosa abbastanza logica. In realtà chi ha una rete fisica come TIM, Vodafone e Wind 3 incassa anche proventi da roaming da parte dei turisti esteri, tanti turisti esteri che vengono e fanno roaming in Italia. Chi non ha una rete fisica come Fastweb, Copvoce eccetera eccetera ha soltanto gli esborsi dei propri abbonati che vanno all'estero, ma non ha gli introiti dei turisti italiani dei turisti esteri che vengono in Italia, e quindi è chiaro che queste sono, dal punto di vista del roaming, al momento gestori svantaggiati, e insieme ai gestori svantaggiati anche i loro abbonati sono un po' più svantaggiati. Allora, sì, hai un raccomandato, una domanda di un raccomandato. No, volevo dire, è più facile me, operare al menisco che gestire il traffico. A me è capitato di chiedere l'informazione a un gestore e il gestore mi ha detto: oh, perbacco, non è ancora stato attivato, ha fatto bene, adesso l'attiviamo. Adesso non so che significato avesse. Allora, il significato è un significato, in realtà va invertito il tema, è disattivato. Allora, quasi tutti i piani prima del 15 giugno prevedevano un'opzione per l'estero che poteva essere attivata o no, e chi andava all'estero, in Europa soprattutto, generalmente ce l'aveva attivata per avere un costo forfettario per fare del traffico voce, del traffico dati a un costo più contenuto di quello di listino, diciamo così. E queste opzioni non sono sparite dopo l'introduzione del 15 giugno, semplicemente perché possono ancora servire, per esempio negli Stati Uniti, che è extra UE e ovviamente dove la tariffa conta ancora, cioè non c'è il roaming zero. E in questa situazione, se uno non si sincera di aver disattivato tutte le proprie opzioni per l'estero, uno magari va in Germania o in Francia dove c'è la garanzia del roaming zero, ma non la sfrutta perché entra l'opzione, quindi magari paga dei soldi. Quindi io credo che il suo caso, professor D'Anchise, sia quello del tema legato al fatto che lei avesse un'opzione estera attivata e il suo gestore gliel'ha disattivata in modo tale che possa fruire del roaming zero. Ovviamente se dovesse andare per esempio negli Stati Uniti o in altri paesi dove il roaming zero non c'è, ma volesse avere quell'opzione, dovrebbe temporaneamente riattivarla. Quindi per tutti gli ascoltatori, questo riguarda tutti, controllare di non avere attive delle altre opzioni per l'estero che potrebbero prevalere sul diritto al roaming zero, e quindi far pagare, non so, 3 euro al giorno, 5 euro al giorno a seconda dei gestori per avere un pacchetto dati che tutto sommato spetta nel proprio piano. Grazie. Abbiamo fatto tutte le raccomandazioni, Gianfranco, o dobbiamo ancora dare ulteriore? Ecco, io penso a chi come me magari non ha tanta dimestichezza con gli smartphone e solitamente io dico a Laura o a Marco: senti Laura, è così davvero, ma me lo controlli? Per chi non è proprio smanettone, dai. Chi non è proprio smanettone, semplicemente quello di attivare, come dicevamo prima, i roaming dati solo e soltanto quando si trova all'estero e ne ha bisogno. Questo è quello che protegge. Chi non ha fatto questo si è trovato, per esempio, le sorprese anche banalissimamente sui traghetti per andare in Sardegna. E dice: ma io come? Sono partito dalla Civitavecchia, sono andato in Sardegna, non mi sono avvicinato all'estero, neanche alla Corsica. Cos'è successo? Ma sulle navi, per esempio, c'è un roaming satellitare, dati. Se io ho il roaming attivo, ripetiamo, anche se il telefono non faccio niente, anche se lo lascio sul comodino della mia cabina, bene, il telefono continuerà a controllare la posta. Certo, fare, perché lui è sempre indaffarato, un po' come lui noi. È sempre in servizio come carabiniere. Insomma. Allora, grazie. Infatti un'ascoltatrice mi scrive: ciao Nico, all'isola d'Elba prende Vodafone della Corsica. In quel caso, anche se per un attimo piglia Vodafone della Corsica, adesso non succede niente perché Corsica è Francia e quindi è comunitaria. Ma, e abbiamo così iniziato il ripasso di geografia, vedi? Assolutamente. Perfetto. Sì. Gianfranco, buone vacanze, grazie per essere grazie stato con noi. Grazie mille. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare, è l'amore che ti... Cambiamo argomento con tre parole, ne facciamo di più di, al telefono, quindi telefonate corte, mi raccomando, quando siamo all'estero, e poi controlliamo bene tutte le impostazioni. Cambiamo tema e cambiamo parole, quelle che ci accompagneranno nel corso di questa ultima parte di trasmissione sono gomito, ginocchio e caviglia. Oggi ci occupiamo di queste tre articolazioni perché forse in questo anno abbiamo un po' esagerato, le abbiamo stressate, le abbiamo fatte fare gli straordinari, lavori esagerati o non adeguati, oppure le abbiamo trascurate e loro alla fine ci presentano il conto. E allora che fare per non farsi sopraffare magari dal dolore, trovarsi a fare conti con dell'instabilità, con la difficoltà in movimento? Allora, noi non possiamo fare altro che seguire i consigli del professor D'Anchise, che, come sapete, è già in studio con me, pronto ad ascoltare le vostre storie, a darvi spiegazioni e indicazioni. A vostra disposizione. Allora, professore, partiamo da gomiti e ginocchia. Lontane e diverse, ma per alcuni versi simili. Ad esempio, entrambe sono fatte per assicurare il movimento in una sola direzione. Piccolo errore, nel senso che il gomito non ha solo quel movimento. Quando noi giriamo la mano, quella che viene chiamato pronosupinazione, è un lavoro che fa il gomito. Eccolo lì. Questa è una cosa molto importante. La similitudine è che sono due articolazioni estremamente complesse, forse le più complesse, nel senso che l'anca è una palla alla testa del femore che gira nell'acetabolo, nel bacino. La spalla anche è abbastanza semplice come articolazione, mentre il gomito e il ginocchio sono due articolazioni complesse. Hanno una differenza che è fondamentale, che una sopporta il carico come la caviglia, l'altra non sopporta il carico, quindi è molto meno stressata rispetto a un'altra articolazione. Il gomito è molto meno stressato. Ma parleremo anche di caviglia, vero? Appunto. Le caviglie, ci anche quelle sottili. Ci devono portare a spasso. Sì, e spesso le trascuriamo, soprattutto quando prendiamo quella stortarella con il tacco. Diciamo niente, ma poi alla fine stortarella su stortarella, la caviglia poi ci dà dei problemi. Allora, noi partiamo dal gomito, cerchiamo di raccogliere degli indizi utili per venire a capo del nostro problema, se abbiamo un problema, e ci aiuta la nostra scheda. Prova a stendere il braccio e resta in questa posizione per qualche secondo. Niente da dichiarare? Oppure fai un po' di fatica e senti una tensione dolorosa? E se esegui questo movimento con un peso? Tutto regolare? Oppure senti un po' di male? Prova adesso a piegare il braccio. Riesci a toccare con la mano la spalla senza difficoltà? Oppure piegare il braccio per te è un piccolo sforzo? Ruota il polso in senso orario e antiorario. Arriva qualche segnale di disturbo dal gomito oppure niente di rilevante? Quando sollevi un peso, il tuo braccio risponde bene o avverti un leggero dolore oppure una sensazione di formicolio? Professor D'Anchise, cosa abbiamo sbagliato? Vuole aggiungere qualche dettaglio, direi, un'informazione, una precisazione? No, direi che era molto interessante il discorso del peso, nel senso che il gomito, diciamo così, non ha una patologia fortunatamente frequentissima, anche per il discorso a cui accennavo prima, cioè il fatto di non dover sopportare il peso del corpo. Diciamo che ci sono due o tre patologie estremamente frequenti. E l'altro aspetto molto importante è la traumatologia. Molto spesso il gomito viene sottoposto a dei traumi che sono abbastanza frequenti e che richiedono alle volte anche un trattamento chirurgico e come sempre in tutte le articolazioni che si muovono, una non perfetta ricostruzione dell'articolazione comporta un'usura dell'articolazione e quindi un'artrosi. Anche qui l'artrosi del gomito è molto meglio tollerata di un'artrosi del ginocchio o della caviglia che deve sopportare il peso del corpo. Io vorrei dire che ci sono due patologie che sono molto molto frequenti, che sono il gomito del tennista. Eccolo. Che non è altro che un'epicondilite, cioè l'infiammazione di alcuni muscoli, l'inserzione di alcuni muscoli sul gomito, che vengono sottoposti a stress non solo facendo giocando a tennis, ma anche in altre situazioni. È un dolore che si sente nel tirare su un peso, alle volte non si riesce proprio neanche a tirare su una bottiglia, una borsa della spesa, una bottiglia, e quindi questo è molto molto frequente. E un aspetto terapeutico che spesso viene trascurato è quello che una buona ginnastica specifica, magari si può trovare su internet anche quelli che possono essere gli esercizi più utili, una buona ginnastica specifica può prevenire e può anche curare una epicondilite. Io ho sofferto di epicondilite. Ma lei gioca a tennis? Sì, però devo dire che mi è capitato tirando su uno di quei vecchissimi televisori di 20 anni fa che era pesantissimo e mi è venuto un epicondilite. Così sua moglie le avrà detto non far più niente, che meglio così. Posso dire che mi è ritornata facendo braccio di ferro con un collega. Ho vinto, però mi è venuto un dolore incredibile. Allora, gomito l'abbiamo sistemato. Sì, l'altra patologia molto frequente è la borsite. Ah. Che è simile alla borsite che può capire al gomito, scusi, sì, al ginocchio della lavandaia, che può essere può capitare anche al gomito, cioè la sporgenza che noi abbiamo, che si chiama olecra, no? Qualche volta viene sollecitato anche per esempio stando appoggiato banalmente. Sì. Tutte le volte in cui noi abbiamo osso e a contatto con la pelle, madre natura ha messo una specie di lubrificante, una borsa, che se si infiamma si può riempire di liquido e può creare una borsa che dà molto fastidio. Si mette il ghiaccio, ma spesso bisogna operarla. Aia. Michael, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedervi questo, non per me ma per mio figlio che gioca a pallanuoto e gioca in porta, e diciamo che ha spesso delle infiammazioni al gomito perché ha una sovraestensione quando arriva il pallone, per cui la parata viene fatta estendendo il braccio e quindi si piega un po' più l'articolazione verso l'esterno. Non abbiamo mai avuto modo di fare terapie particolari piuttosto che usare degli ausili per proteggere questo gomito. Se lei potesse dare delle indicazioni. Grazie, perché c'è la ginocchiera ma non c'è la gomitiera, forse. No, la gomitiera ci sarebbe ma non servirebbe in questo caso. Io credo che l'importante sia, un po' come il discorso che facevo prima dell'epicondilite, avere un rinforzo muscolare dei muscoli che si oppongono alla iperestensione, quindi rinforzare quei muscoli che impediscono l'iperestensione del gomito in modo da bilanciare lo sforzo che suo figlio fa giocando a pallanuoto. Che comunque diventerà un certo fustaccione. Allora, noi andiamo a sentire i mercati, un po' come Carmelo. Andiamo a sentire i mercati e poi ritorniamo subito dopo insieme. Gomito, scendiamo poi alle nostre ginocchia fino a puntare alle caviglie. Fino in fondo. Fino in fondo, dal gomito in giù. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi. Noi oggi vogliamo cercare di evitare crisi a tre articolazioni in particolare, che devono farci così, ci portano in giro, ci fanno fare anche bella figura in estate, che sono le nostre ginocchia, le nostre caviglie. Ma vogliamo occuparci, e l'abbiamo già fatto, anche di gomito. Perché? Perché sono delle articolazioni che inconsapevolmente possiamo anche stressare. Molto sollecitate. Molto sollecitate. E poi ci sono gli anni, e poi ci sono le posture viziate, e poi comunque ci sono quelli straordinari a cui sottoporremo le nostre articolazioni, molti di voi, durante le vacanze, tennis, una partita tennis con gli amici, la partita di calcetto, la corsa magari con così lungo la battigia. Certo. Dobbiamo, allora, cerchiamo di rimanere in gamba. Io metterei o di recuperare però insieme la forma. Molte cose. Cioè, l'elemento fondamentale, secondo me, che l'errore che noi spesso facciamo d'estate è che non facciamo niente durante l'anno ed estate facciamo tutto. Certo. E questo è un errore grossolano, nel senso che le nostre articolazioni di cui stiamo parlando non sono abituate ad essere così sollecitate e facilmente ci possono essere delle sofferenze muscolari, delle sofferenze tendinee se noi 15 giorni prima, non dico tanto, cominciamo a fare un po' di allenamento per quello che poi riteniamo di dover fare durante le vacanze, questo ci mette in condizione di ridurre al massimo il rischio di anomalie durante le vacanze. Quindi se ci sentiamo un po' arrugginiti... Se vogliamo giocare a tennis, per esempio, facciamo un po' di ginnastica per rinforzare la nostra spalla, il nostro gomito, il nostro polso, per dire un esempio, piuttosto che andiamo a fare un po' di rinforzo in palestra se vogliamo fare qualcosa che sollecita molto l'articolazione del ginocchio. Allora, proprio lì vorrei arrivare, al ginocchio, perché abbiamo descritto quali possono essere le situazioni di crisi del nostro gomito. Sì. Anche il ginocchio, abbiamo fatto delle puntatone con lei, professor sì. D'Anchise, con centinaia veramente ormai di ascoltatori. Sanno tutto gli ascoltatori. Sì, però il ginocchio ci dà sempre qualche certo. piccolo problema, dal ginocchio che fa cric e croc, ma lei ci ha sempre detto che non dobbiamo Se non neanche fa male, sentirlo. Non è un problema il rumore. E poi da questo dolore che a volte viene durante il movimento, a volte dopo che ci siamo mossi o che avvertiamo quando ci alziamo dalla sedia o se stiamo un po' di tempo seduti, penso al cinema, il famoso ginocchio, sì. no? del segno del cinema. Il segno del cinema. Ecco, tutte queste situazioni che ci fanno sospettare che questa articolazione che lei ci ha spiegato tante volte che è stata messa insieme un po' malamente in qualche modo. Ecco, un po' oddio, mi sono dimenticato le ginocchia. Mettiamo i due legamenti. Ecco, viene spesso sollecitata, porta il peso del nostro certo. corpo ed è appesantita e stressata dai chili in più, ma prendiamocene cura perché dobbiamo restare in gamba, certo. professor D'Anchise. Allora, qualche osservazione. La prima osservazione si rifà a quello che dicevo prima. Le nostre ginocchia hanno bisogno di una muscolatura valida e questo è valido per tutti. Anche per pacienti che hanno un'artrosi, anche un'artrosi abbastanza importante, dovrebbero comunque avere una buona muscolatura, un buon rinforzo muscolare. Questo è il primo elemento. L'altro elemento è, facendo riferimento a quello che si diceva, il dolorino che viene e che passa, anche lì non dobbiamo stare a pensarci e a preoccuparci troppo. Dobbiamo preoccuparci se il ginocchio si gonfia, questo sì. Attenzione che il gonfiore non ci consente di dire che cos'ha il ginocchio. Il gonfiore è una manifestazione di qualche cosa che non funziona all'interno dell'articolazione e il ginocchio reagisce producendo più liquido articolare. Il liquido articolare è quello che tutti noi abbiamo in misura ridottissima che consente di lubrificare l'articolazione, di farla muovere. Un altro elemento importante è fare molta attenzione, e ripeto quello che ho detto prima, perché la sollecitazione anomala è quella che può anche creare una rottura meniscale se noi non abbiamo una muscolatura valida. Questo è un elemento veramente molto importante. Un altro aspetto è approfittiamo dell'estate nel caso in cui si abbia una patologia dell'articolazione per rinforzare la muscolatura, cosa che magari non abbiamo fatto durante l'anno. Allora, se il vostro ginocchio vi dà qualche problema, 800 24 00 24, se l'avete riparato, se qualcuno un chirurgo ve l'ha riparato e non è più quello di prima, cerchiamo di capire di più insieme al nostro esperto. E proprio a questo facevo riferimento io, chi ha avuto un intervento, chi ha un'artrosi, utilizzi il periodo di vacanza per fare quello che purtroppo non riesce a fare durante l'anno. Cado batto il ginocchio mi fa male e si gonfia, ghiaccio e finita lì? Ghiaccio e finita lì, si sta a aspettare, si prende un antinfiammatorio per togliere un po' l'infiammazione e il dolore, se il dolore passa non si fa niente, se il dolore non passa ovviamente la prima cosa da fare è un esame radiografico che spesso viene trascurato, che invece ci può dare molte informazioni, se non è sufficiente la radiografia a farci capire qualcosa, la risonanza magnetica è l'accertamento preferibile. Che cosa devo pensare e soprattutto che cosa devo fare quando il mio ginocchio si lamenta dopo che sono andata a correre oppure dopo che ho camminato di buon passo? Allora, molto spesso nelle persone che lo fanno, allora chi non lo fa quasi mai è probabile che ce l'abbia, ma non ha grosso significato. Chi invece lo fa abitualmente ed ha una sintomatologia dolorosa, può darsi che la sua sollecitazione continua possa aver procurato una sofferenza della cartilagine. La cartilagine è il tessuto che riveste l'articolazione e fa sì che le due superfici articolari si muovano liberamente l'una sull'altro. Una sollecitazione come la corsa o come il cammino prolungato può nel tempo creare un'usura di questa cartilagine. Vogliamo scendere? Professor D'Anchise, scendiamo alla caviglia. Se fosse una persona potremmo dire che è un tipo che se la lega al dito. Infatti la caviglia non dimentica, spesso dopo una distorsione ci accorgiamo che non è più la caviglia di prima. Se ne avete esperienza chiamateci, come ha fatto Daniela che ci chiama da Modena all'800 24 0024. Daniela, buongiorno. Buongiorno. E pongo la mia domanda. Sì, sì, se vuole. Sì, certo. Allora, io in realtà ho avuto una bruttissima frattura alla caviglia, che il dottore conosce perché la chiamano frattura del pilone tibiale, ed è stato quasi 2 anni fa e quindi sono 2 anni che sto facendo un percorso lungo e difficile, che però ovviamente ha già portato a un'artrosi, non sarà recuperabile, si sta già parlando di protesi dell'articolazione. Nel frattempo però ho avuto modo di fare ovviamente diverse visite tra ortopedici e fisiatri. Certo. E ho trovato così ha fatto un po' di moto, vede? Esatto, sì, non sempre sulle mie gambe, soprattutto all'inizio, ma le ho fatto. Ho trovato differenze di, diciamo così, di opinione per quanto riguarda alcune cose e alcuni presidi a supporto della caviglia, sì, cioè gli integratori e ad esempio terapie, diciamo, tipo la magnetoterapia. I fisiatri propongono integratori a base di acido ialuronico, glucosamine e li ritengono almeno, non dico efficaci, però utili. Gli ortopedici ho visto che considerano invece inutile la somministrazione per bocca. Stessa cosa ho visto rispetto ad esempio alla magnetoterapia. Quindi no, allora più medici si interpellano, certo, più aumenta la confusione. Io questo, allora, di questo ne sono partiamo sicura. Partiamo dal concetto che quando si è instaurata l'artrosi non c'è nulla da fare, non si può tornare indietro, non esistono infiltrazioni che possano ricreare la cartilagine e gli integratori a mio parere non servono a nulla, possono avere una certa utilità nelle fasi precocissime quando però quasi mai sia male, quindi io degli integratori gruppo degli ortopedici, io sono il gruppo degli ortopedici, sì. Bisognerebbe adesso avere un contraddittorio con il fisiatra e poi alla fine non ne arriveremo a una. No, questo può darsi, però il concetto è se io dico sempre che se quello che si consuma nel nostro corpo l'abbiamo perso, non c'è niente da fare. Quindi l'integratore può in qualche caso diminuire un po' la sintomatologia dolorosa, però non può assolutamente dare un beneficio articolare. La magnetoterapia può essere utile perché la magnetoterapia crea un aiuto all'osso, però ripeto, tutto questo non modifica, non ha nessuna influenza sulla patologia di base, che purtroppo è l'artrosi e nella frattura del pilone tibiale si crea quella situazione a cui accennavo prima. Se non si riesce a creare un'anatomia perfetta, l'articolazione soffre. E la caviglia, a differenza del gomito, ci porta a spasso. Eh certo, allora credo che la nostra amica ne sappia come prima, perché sicuramente ci sono due correnti, certo, di pensiero, e poi noi cerchiamo sempre di smascherare un po' le bufale che riguardano non solamente così la medicina in senso lato, ma l'alimentazione, i trattamenti, ma ci sono delle condizioni come queste in cui ci sono veramente due scuole di pensiero. 800 24 00 24, poi ritorniamo subito dopo insieme, ultima parte della trasmissione dedicata tutte alle vostre domande. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Cuore e Denari. Con il professor D'Anchise in una puntata che abbiamo voluto tutta dedicare a gomiti, caviglie e ginocchia, un grande esperto per aiutarci a capire quali sono i segnali che non dobbiamo trascurare, soprattutto che cosa possiamo fare se una di queste articolazioni inizia ad avere qualche problema. Abbiamo anticipato che avremo così dedicato questa ultima parte di trasmissione alle vostre domande, che sono davvero tantissime. Segno che, professor D'Anchise, volevo ricordare solo tutte queste articolazioni ci danno un sacco di problemi, a vedere dalle telefonate dei nostri. Tutte le articolazioni ci danno problemi, ecco, purtroppo. Volevo solo ricordare, mettere in evidenza un aspetto: il peso è molto importante, specialmente se noi abbiamo una patologia di base, la frattura, il menisco, quello che vogliamo noi, avere un peso eccessivo nelle articolazioni che ci portano a spasso crea una maggiore usura articolare. Infatti molto spesso gli ortopedici mettono a dieta, ecco, anche ci proviamo, voi, ci proviamo, anche voi, ci proviamo, siete, devo dire la verità. Allora, e adesso noi proviamo a dare una mano ai nostri ascoltatori, andiamo da Paolo che ci chiama da Torino. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Io tornerei al ginocchio perché... Bravo, portateci un saliamo, po' su e giù, andiamo al ginocchio, ok. Allora, io ho giocato a basket fino a 30 anni, adesso ne ho 60. E quindi ho delle ginocchia che sono grosse, diciamo così, ma soprattutto quando faccio la discesa in montagna, fare passeggiate normali, il ginocchio mi si gonfia, un po' di ghiaccio e va a posto. Però ho sentito che il problema è la muscolatura, effettivamente io ho ridotto molto la muscolatura, sono sedentario, sono sempre in macchina, c'è qualche piccolo esercizio, cioè questa muscolatura che ho capito essere fondamentale, come si fa a rimettere in allora, petto alla mia età? Stiamo mescolando un po' le due cose, nel senso che il suo problema probabilmente, che è un problema prevalentemente in discesa, è un problema di cartilagine, un problema di sofferenza prevalentemente a carico della rotula, che è quella che in discesa lavora molto e contrasta un po' la gravità quando noi scendiamo, quando noi veniamo, facciamo trekking e scendiamo. Quindi probabilmente il problema di fondo è questo. Io non trascurerei questo aspetto che tende a gonfiarsi, perché l'articolazione rischia progressivamente di usurarsi, quindi faccia qualche accertamento per capire a che punto sono le sue articolazioni, le sue ginocchia. La muscolatura certamente l'aiuta, però ripeto, c'è un problema di base, e io dico sempre facciamo attenzione al trekking, perché quando si sale bisogna anche scendere, non possiamo prendere il taxi, quindi la sollecitazione a cui noi lo sottoponiamo è una sollecitazione obbligatoria, perché dobbiamo tornare a casa. Quindi io ridurrei un po' questo sforzo, perché tutto quello che crea dolore a livello delle nostre articolazioni è un campanello d'allarme per dire questo non va fatto. Ecco, di un'infiammazione, quindi esatto, mettere a posto questo problema che sta a monte del gonfiore del ginocchio e poi lavorare sulla muscolatura. E poi avere una buona muscolatura. Sicuramente che serve a però proteggere. Attenzione, quello che fa male riduciamolo. Vita da Milano, e mi ha lasciato Vita da Milano. Professor D'Anchise, ci sono tantissime domande, ma ci sono delle attenzioni, delle precauzioni che le persone che hanno problemi, io rimango sul ginocchio, ai legamenti del ginocchio devono fare, soprattutto in occasione delle vacanze, spostamenti, gite, partitelle? Ripeto quello che ho detto un attimo fa. bisogna cercare di evitare le situazioni che creano dolore e l'abbiamo già detto, però approfittiamo dell'estate per rimettere un po' in forma la nostra muscolatura e evitiamo le sollecitazioni brusche ed improvvise. Alessandro, buongiorno da Milano. Buongiorno, ciao. Allora, io ho 37 anni, ho un problema che si presenta... Alessandro, rimaniamo un po' vicini, perché io non sento nulla, eppure ho fatto anche la puntata sull'udito. Mi sente? Adesso meglio. Meglio. Allora, ho un problema che si presenta ogni volta che vado a fare trekking in montagna, mettendo una calzatura da trekking, insomma. Sì. Un dolore, una fitta alla caviglia destra, solo una delle due. Solo una delle due. Non succede quando porto altre scarpe, quindi che sia la scarpa. Bisogna capire se la scarpa non crea una pressione in un punto particolare. Le nostre caviglie non è detto che siano perfettamente identiche. Sì, la scarpa, però comunque non succedeva prima, cioè queste scarpe hanno tanti anni. E può darsi che ci sia stata una deformazione per qualche oppure motivo. Un appoggio del piede non corretto. Infatti. Sì, può anche darsi. Allora, quindi io proverei con altre scarpe. Io cambierei scarpe, certo. Proverei, ma qua faccio il professor D'Anchisa, ad andare in un centro per avere dei plantari fatti su misura per valutare se il piede e l'appoggio è corretto e quindi per evitare comunque, che la caviglia adesso possa io avere... non mi intendo molto di trekking, però per esempio per la corsa voi sapete che vengono fatti dei video nel momento in cui si va a scegliere la scarpa per capire camminando su un tapirulan come l'appoggio. Non so se questo possa essere trasferito alle Alessandro, scarpe ci faccia sapere di lei, mi raccomando, delle e delle sue scarpe, ci mandi una foto. Vita da Milano, buongiorno, ma c'è? Sì, ci sono, mi sentite? Sì, perché io ho detto Vita da Milano e Carmelo mi ha fatto segno, caduta. C'eravamo entusiasmati. Sono subito spenta. Ero caduta, ma mi sono rialzata, come sul mio ginocchio sinistro del resto. Non si è fatta male. Le mando subito il professor D'Anchise. Buongiorno intanto. Buongiorno. A tutti e due, piacere grandissimo di poter parlare con voi. Ci dica. Il mio problema riguarda il mio ginocchio sinistro, poverino, che è, diciamo che in passato ha subito qualche trauma dovuto a delle cadute, ma stupide, niente di grave, insomma, niente di che mi abbia portato ad andare a un pronto soccorso, niente di niente. Ad un certo punto ho cominciato ad avere problemi di versamento di liquido sinoviale, quindi aspira oggi, aspira domani, poi questi episodi avevano una frequenza sempre più assidua, diciamo, e a un certo punto si è stabilito, andando dall'ortopedico, che dovevo fare una artroscopia al menisco, esattamente, che ho fatto a novembre, all'inizio di novembre. Vita, ho dovuto purtroppo rifare di nuovo delle aspirazioni di liquido sinoviale, è stata riscontrata una condrocalcinosi, e adesso sono in attesa di capire che cosa dovrei fare esattamente, anche perché il liquido sinoviale ha dato 3300 di valore di globuli bianchi. Allora, grazie. La domanda è stata lunga e complessa, ma professor D'Anchise ci permette di rispondere anche a tutti i dubbi degli ascoltatori che sottolineavano il problema di liquido sinoviale. Mi hanno aspirato il liquido dal ginocchio, sembra che improvvisamente il ginocchio vada svuotato da questo liquido che galleggia. Ci spiega bene che cosa succede, perché si produce in eccesso al punto da essere... L'avevo accennato prima, ma... nel senso che noi abbiamo quella che è la membrana sinoviale, che è un tessuto che riveste l'articolazione all'interno, che produce questo liquido che lubrifica l'articolazione. In qualche caso per qualche situazione infiammatoria, traumatica, c'è una produzione di liquido, o ci può essere una produzione di sangue, non liquido sinoviale, se abbiamo un trauma che può rompere un vasellino articolare. Quindi abbiamo un aumento di produzione. Nel caso della signora è la condrocalcinosi. La condrocalcinosi è una malattia simile alla gotta che fa sì che si mettano all'interno dell'articolazione delle specie di cristalli. Sì. Questi cristalli infiammano l'articolazione e creano il problema. Passata la patologia con antinfiammatori, la situazione si può risolvere, però la malattia di base permane e quindi la situazione si può ripresentare e non c'è molto da fare se non delle terapie che possono essere valutate con veramente con un reumatologo. Questa è l'ipotesi più ragionevole. Quindi attenzione, ecco, attenzione a non far svuotare troppo l'articolazione. Io, diciamo, come scuola vecchia di tanti anni fa, noi tendiamo a ridurre molto l'asportazione del liquido sinoviale, se non per fare una diagnosi, perché qualche volta l'esame del liquido sinoviale ci consente di fare la diagnosi, o quando fa molto male. Cioè se noi abbiamo un aumento di liquido molto importante, c'è una un dolore, sorta di pressione. C'è una pressione molto dolorosa, è chiaro svuotarlo. Teniamo presente che quando si forma il liquido si forma una cavità più ampia, se noi la svuotiamo questa cavità in parte viene di nuovo riempita e quindi si riforma il liquido. Quindi limitiamolo, l'asportazione. È dolorosa? Dipende, può far male. Professor D'Anchise, siamo arrivati a chiusura di questa, ne abbiamo fatte, ne abbiamo dette, siamo saliti, scesi, fermate intermedie suggerite dalle domande, dalle richieste dei nostri ascoltatori. Le auguro buonissime vacanze, mi raccomando col anche vomito del tennista, va bene, ecco, perché poi comunque ne ho uno bravo da suggerire se nel caso lei si facesse male. Grazie professore, grazie per essere state con noi. Io torno domani. Torna naturalmente anche Laura Vanossi, torna Carmelo Lauricelli, torna Marco Lombardo che mi aiuta ad affrontare i temi di denari in assenza di Deborah. Vi auguro una buonissima giornata, mi raccomando in gamba, pronti a domani per una nuova puntata.